oggi ero in giardino che lavoravo. Mia moglie è arrivata e ha detto che parlavo già da tempo da solo. E aveva ragione, era una strana conversazione. Spesso non ero d'accordo su quello che dicevo, su quello che pensavo, sui fiori che piantavo. E pensavo che Mick Ronson è stato il più figo di tutti, un marziano coi capelli biondi, ma non ha fatto neanche un quattrino. Ma forse a lui bastava un bicchiere di vino. Se quelli che abitano sulle stelle vedono la terra che si spegne, fra stupore ed orrore si stanno chiedendo: ma vi rendete conto di cosa le state facendo? C'è chi porta sulle spalle ogni giorno la croce, c'è chi bacia il rosario ma dentro è feroce, chi si riempie la bocca di poveri e deboli, ma nei salotti buoni poi non si fa scrupoli. Poi ti capita per caso di fare un figlio e ti accorgi che non avevi mica capito che in questa piccola vita si nasconde l'infinito. Poi pensavo a quel chicco di grano, col cuore che batteva in seno. Poi è diventato un fagiolo, una noce, ed era sempre quel cuore che batteva quando ha visto la luce. E i primi passi, le cadute, i singhiozzi, e lo stupore in ogni cosa su cui posavi gli occhi, le risate infinite e tutti quei pianti. Non sapevano il perché neanche i santi. Poi le prime marachelle, le caramelle, le stelle, le prime delusioni amorose così dolorose, le notti d'estate afose passate con gli amici. E quelle sono le cose che ci rendono felici. E quel chicco di grano si è fatto uomo e tiene la mano di un padre diventato anziano. E su un letto di morte una farfalla si posa e con un sorriso il vecchio urla: la vita è una cosa meravigliosa.